Allora, aspetta, grazie, non hai ricordato il tuo CD, non ho fatto una casa di punta. No, questo proprio è 5 ampere, ma sta bollendo, sta, poi quando schiaccio la portante vibra, non vorrei che facesse danno alla radio, capito? Oh, Luca! Sì? Luca! Ehi, dai, gliel'ho anticipato io! Ok. Sacco! Senti, con l'alimentazione 30 ampere, quello che sto dicendo, si batte avanti 14 14,99 più 5,90 mi sono iscritto. Ma tu hai detto 50 ampere, ecco perché ti ho detto guarda quel link che ti ho mandato io. No, perché con la speranza di attaccare altre radio, hai capito? No, questo è 30 ampere, 14,99 più 5,99 iscrizione. Registrato. No, io mi interessava l'altro, perché devono attaccare anche gli altri apparati, quindi come basta 30 ampere, almeno 50 per poter attaccare anche il Midland, Lincoln. Va bene, senza si è bussato. E avanti, buongiorno, buonasera. 9.10 oscillante a 9.15 radio 5. Vabbè, però dici in che zona stiamo durando, così ti diciamo anche presso a poco se stai andando bene o male. Allora sei molto vicino a noi, Vai una volta. No, figurati, piacere. Vabbè, Luca, no, tieni conto comunque, dai. Tieni conto che mi serve 50. Io sto guardando. Allora, 50 c'è 22,50 più 5, 22,50 più 5. Adesso va bene, io sono uscito dai primi, non so, l'avevo visto, non mi ricordo quando sono portato, adesso sembra che era 18. Poi io sto guardando in mano che mi dai, 22,50 più 5 iscrizioni, 50. Ma sai che sto dicendo, eh? Poi questo 18, aspetta, forse è questo, 18 e 23. Aspetta, io riesco a... Adesso qua, allora, questo 23, l'altro era 22,50, l'altro era 23. A 4, a 0, 29, cavolo, a 20, 20, 20, 21, 25, 24, 30, non so che dire, però lo ridà, sì, lo ridà, perché... Sotto i 23. No, ascolta. Questo è 12 volt 50 ampere, prima apre 12 volt 50 ampere, e viene 18,73 e più 5,90, compro lo stesso. No, io ne ho trovato uno 50 ampere, 18,23 più 6,90. Da poi cerca il meno caro naturalmente. Ma se è quello, non so se è quello, lo conosci tu. E c'è ancora l'amico di Bricone avanti. Attento, l'amico di Bricone è vicinante. No, non mi è arrivato niente. No. Attenzione, l'amico di Poccanti, di Bricone è vicinante, ci sei ancora? meccanica che hai fatto. QRM 1, neanche un annetto. HHI, allora. Vediamo un po' se è arrivato questo. Ascolta, e quanto è radio per attaccare? 2 Sì. Di 14,9 è un 30 però. Sì, ma mi conta un 30 per fare buchi. Però finché la ascolti un po'. Quando ascolti e parli, la radio ha bisogno di più ampere, quindi adesso la basta. Questo addirittura se non riesco a parlarci perché sono un po' più fatto, poi mi ha traduce Ballerbai, se non riesco la faccio. Sì, ma tu hai detto, ma devo attaccare quello, devo attaccare l'altro, ma non è che tieni tutto acceso, tutto in trasmissione. Se tu trasmetti con quello lì da 30 ampere anche, trasmetti con quello e li attacchi anche 4 baracchini in ricezione che consumano 2 ampere, poi hai vari buchi. Puoi anche attaccare l'HF e altre 4 radio in ricezione, che non ricordo bene, manco. Sì, quello sì. Solo di toccarsi, aspetta un po' per l'attività ora. Sì, però siccome ho delle radio che non sono alimentate, tocca fare un casino a collegarle qua, quindi una volta che sono collegate, quando voglio non faccio altro che attaccare un PL volante. Accendo le uso, invece così ce le ho a soprammobile, lampadino, spente, basta, capito? Quando ho la possibilità di poterle accendere, accendo. Sì, ma infatti sto dicendo. Puoi attaccare tutto, ma intanto trasmetti sempre con una, no? A te ti serve soprattutto per quello, che sono 30 ampere, anche se tieni tutto acceso e trasmetti, gli altri li tieni accesi, poi non è partito nulla 30 ampere. Allora, questo qua viene, ce l'ho detto, 18,23 più 6,90 in istituzione. Con la simulatoria invece era di meno, era 5,99 di istituzione. Boh, non mi è arrivato però, perché non capisco perché ti rispondo. Comprati, possessivi. Ciao, domani, perché sono tutta l'alimentatore. Ah, sì, buonasera. Anche il mio si è andato a farsi benedire già due volte, gliel'ho portato, e mi sono preso quello da quelle cinghie. Vanno bene quelli lì, fanno un bebè, certo, 50 ampere, cosa vuoi di più? Sì, io lo so, infatti lo prendere quello lì. Aspetta, non ci do più. Io sto uscendo con quell'alimentatore. È bellino, Io pensavo fosse un barrasone, invece è bellino, È veramente bello, adesso lo modifichiamo e una cosa estetica, là. Ci troviamo con Luca. E via, fratello, già è tutto fattibile. Avanti, tu. Prendo comunque ti, prendo che sono comodi, a Puglia. Sì. Stiamo cercando, Gianmarco, quello da 50 ampere, se c'è qualcosa di meno caro possibile, stiamo guardando su eBay. Ci sono cose anche di meno, Però non so se c'hanno il trimmer quello lì, Non tutti c'hanno il trimmer, o lui. Il 99% ce l'hanno, Gianmarco, anche quelli microforati ce l'hanno, senza vento. Anche quelli, adesso vediamo un po' di trovare il meno caro. Vai. Sai che già vale la pena, dai, per quello che costano, è anche troppo. Fanno troppo, fanno bene, sì, tranquillo. Riprendilo, dai. Sì, io sto cercando appunto. Ti è l'antenna, non la piazzi. Ancora no, perché... ancora no perché devo fare un palo particolare per poter fare tutti gli altri movimenti. E allora piano piano te lo fai e quando è disponibile gliela piazzi. Va benissimo, vediamo un po' dopo se tutto va. Speriamo che vada tutto bene. Vediamo. E poi diciamo la verità che sono anche un po' così, un po' a rilento perché non ho la stanza adatta, quindi devo anche fare qualcosa di mio chiuso, diciamo, quindi devo mettermi un po' le cose un po' in ordine. Piano piano ce la fai. Piano piano ce la fai, sì. Con la camera, cosa te la fai bene, almeno sei tranquillo. La calma e poi ci vogliono anche un po' di quartini per fare una stanza, diciamo, una stanza, non sei bustino più che una stanza, ormai, perché qua in mia sala, come tu sai, quando ci sono i bambini, non è che non vogliamo volare, è che purtroppo anche loro insomma, devono giocare, magari un po' di voci bianche mi sopravvivono. Poi c'è la moglie che viene con un cubiletto che è meglio per dire piegarlo e insomma devo volare, invece in quel caso mi chiudo il mio santino. E comunque hanno ragione, e certo lì non va bene, no va bene perché loro di solito sono sempre lì e per cui senti il televisore, loro pensano a guardarsi il televisore e se tu fuori magari c'è una rottura come succede qua, noi la maggior parte lo facciamo in questa cameretta. Però anche lì se ne viene, poi non lasciarmi solo, se ne viene da me, così che io mi metto le cuffie e guardiamo la televisione, io parlo, magari parlo piano piano in modo da poter disturbare ciò che sente dalla televisione, sennò poi ogni tanto dice basta che è troppo alto, per dirti com'è la situazione, mentre invece avendo una cameretta separata sarebbe stato l'ideale, però non tutti si può avere nella vita e cosa vuoi fare. Vabbè, l'architetto. Niente, con Slamba, niente, bubu. Oggi stamattina, un marocchino, fa vedere il guaracchino. Che non comprendia, però gli avrà giudizio. Ogni tanto la si accappa un po' chissà cosa. Che tu bocca che tu berrita. No, anche me. Con lo Strambo. Allora. Io non riesco a capire il perché se ne va per i fatti suoi, che con la pagina aperta e non riporta con la pagina iniziale di Google. Sì, no. E io? Ma è l'intero, dove me l'hai mandato? Su Facebook non mi ha riportato niente. Ma quello del rivelatore? Come no? Aspetta, Maruno, no, si dà fastidio, allora. L'ultimo tuo caso è quello che è pubblicato su Camperista. No. Questo è, no? Questo è 7 euro, ma questo è 12,15, no, non va bene. Non è questo. Ma no, caro, che avevo io? 50, 23 o 16 per 5 iscritti. Ma a me però non mi apre i messaggi adesso. Giù? Aspetta, un attimino. Basta, sto mandando. No, non mi manda il messaggio, non mi apre la pagina del messaggio, sennò perciò ho copiato il link, però non riesco a mandartelo perché non mi apre la pagina dei messaggi. Poi ne troviamo un altro ciccio, ma sto guardando, non riesco a trovarlo più, e sembra il meno caro quello lì, No, è buono come prezzo. Ma quando vai il computer, quanti ampere? Mi sembra arriva a 10, ne ho. Allora, ne avevo uno, però non lo so. Ciao Mario. Ecco. Riprenditelo un pochino, però ti addormenti. Stavo a capire, sì. Ho detto a riprendere, se no ti addormenti. Ah, anch'io mi sono a pensare del computer, capito? sto guardando anche questi alimentatori, capito? Allora, io sono una canonata, dai, ci si presti ce ne sono. Dai, sono bellini veramente, magari come estetica non è che sia, comunque anche però l'estetica è che se ne frega, l'importante è che cammini bene. Sono svegli, ho provato, già sta andando bene, è un buon volare. Sì, sì, sì, che la mettiamo dall'altra parte. Cazzo, ha già qualche cosa con la 50 ampere, quello della Ceppi, quello che ho io? 278 euro mi sembra. Vabbè, ma c'è da vedere anche, poi vabbè, non so se Luca l'ha usato o meno, così, ma si arrivano a 13,8 di volte. Beh, penso di sì, perché glielo è per regolare. Ah, sì, con la curiosità, dai, prendo il test e me lo misuro, e vediamo un po'. Perché ci sono due radio, come hanno detto, che ce lo hanno per dire la potenza lì, non fanno come dovrebbero andare. Ma se c'è il trim, lo dice che c'è il trim, perché vuol dire che si può aumentare. Adesso per la curiosità lo provo, dai, un attimino. E già, siamo qua. Anzi, oggi dobbiamo andare a centrare un attimino per andare a finire a fare una pulirecchia. Riprendo dopo, un attimino. Ehi, ehi, abituato, Giovanni, sto girato il trim, siamo arrivati a 13, a 13 mi sembra, tutto l'offerto. Ma poi l'ho tenuto sotto scarica qua, 50 watt, alla grande. Oh, 12,9 me ne sta dando, Sì, a 13, 12,9. Il tuo me ne sta dando 10, 12, ti puoi immaginare. Eppure, l'ho sempre usato. E sta sempre andando. Tutto aperto quel trimmer, giovani. Ah, ma vanno bene. 12 e 9, 13 mi sembra che sono riuscito, però vanno molto bene. Questa qua è, te la sto dicendo, è sempre a 12, di più non va il tuo. Ma è più di 12 non va questo? No, è tutto aperto, però è a 13 quasi, ormai, non è che, capito, che cambia chissà quanto. Da 13 a 13,8. Vabbè, adesso non li trovo. Vai tranquillo. In macchina ci sono 12 volte e poi funzionano lo stesso. 8 e 9, ma visto che non si abbassano le luci, per cui sta andando bene, vuol dire che il basso. Ma sto dicendo, io gli ho dato 50 watt di radio per un bel po' e non l'ha fatto manco. Vanno benissimo, anche forse perché vabbè, la ventola è sempre accesa, però non scaldano niente lo stesso. Da scaldare non penso che scaldi, no. Non penso che scaldino così, e magari per il sicuro gli hanno messo magari la ventola, capito? Beh, ci vuole comunque la ventola, perché senza magari vorrebbe termostattata, però va bene anche così, intanto sono silenziosi. No, me lo prenderò anch'io, perché è piccolino appunto, e va benissimo. Non mi dispiace, dai, va bene. Sta camminando bene, che per me va bene. Sì, che sono tranquillo ugualmente, vai. Sì, ma poi ho sentito molto, ormai che da un po' di tempo che li stanno usando, ma usando in HF burro. E magari loro usano molte ore pure, ma io non è che massimo qualche sera così, perché accendo anche l'altro, capito? La maggior parte accendo l'altro, quattro. Per cui questo l'accendo il mio morto di papa, per immaginare, sicché va benissimo. Dimmi se c'è un picchi positivo o picchi negativi. Vedi un po' lui. 1, 2, 3, prova. Fischia. Positivi. Allora sono tranquillo, va bene. Positivi. No, me lo prenderò anch'io, li faccio al limite e poi mi farò. Guardo da bricolo, mi sembra ci sono quei box in plastica. E poi li faccio tutti, li metto il voltmetro, l'amperometro, li attacco degli altri connettori. E quello è molto importante, dai. E io infatti li mettiamo, dai, a parte dietro, perché non mi sento tranquillo, fai poi che si mullino, gatto, le dico, non si molla, però fai poi che si mullino, certo, cioè, devo bruciare tutto.